Parte terza. Era la terza settimana di agosto. Il clima era afoso e ogni giorno Lora sentiva la gente del paese dire che c'era un temporale nell'aria. La sera uscivano tutti in strada a guardare in su mentre il bestiame restava ad attendere nei campi. Ma il temporale tardava. Si nascondeva dietro le colline aspettando il momento buono. Lora aveva passato tutto il pomeriggio in un prato dalla forma strana, triangolare. Era chiuso su due lati dal bosco e per questo motivo si stava già rabbuiando in un crepuscolo prematuro, come fosse una stanza. Lora era lì da ore. Sebbene facesse un caldo opprimente, non riusciva a starsene seduta tranquilla. Camminava su e giù, girandosi con furore quando arrivava all'estremità del campo. Era tutta indolenzita e inciampava nei sassi e nei fili d'erba ingarbugliati. Per tutto il lungo pomeriggio una colombella aveva tubato nel fresco del bosco, godendosi il suo verde nascondiglio. Ora taceva e il bosco era privo di vita. Il cielo era coperto da una foschia spessa e uniforme. I raggi del sole al tramonto non la penetravano, ma l'aria cominciava ad assumere un pallore torbido e metallico. Il lungo pomeriggio andava ritirandosi, furtivo e impassibile, come se morisse per effetto di un anestetico. Lora non aveva ascoltato il tubare della colombella, non aveva visto la foschia addensarsi nel cielo sopra di lei. Camminava su e giù, disperata e ribelle. Camminava lentamente, sentendo tutto il peso delle sue catene. Era di nuovo prigioniera. Le aveva portate per tanti anni, accettandole tacitamente, quasi senza avvertirne il peso. Ma ora lo sentiva e insieme al peso sentiva la loro familiarità, che era la cosa peggiore. Titus l'aveva vista avviarsi. Le aveva gridato: «Dove vai, zia Lolly? Aspetta un attimo, vengo anch'io!» Lei aveva fatto finta di non sentirlo e aveva proseguito. Non si era girata finché non era stata fuori dal paese. Si aspettava di sentirlo arrivare dietro tutto saltellante da un momento all'altro. Era convinta che se fosse successo si sarebbe girata e avrebbe ringhiato. Perché voleva, oh come lo voleva, essere lasciata in pace per una volta. Anche quando fu sicura di averla scampata, non riuscì a godersi la solitudine. La voce di Titus continuava a darle ai nervi. «Dove vai, zia Lolly? Aspetta un attimo, vengo anch'io!» Riudiva tutte le sue inflessioni e riviveva intensamente il silenzio con cui gli aveva risposto. Troppo agitata per rendersi conto di dove stava andando, aveva seguito un sentiero qualsiasi fino a ritrovarsi in quel campo in cui non era mai stata. Il sentiero finiva lì e lì lei era rimasta. I boschi si ergevano davanti a lei come barriere. Il terzo lato del campo era delimitato da una fila di cespugli disordinati lungo cui cresceva con malevola profusione un fitto sbarramento di bardana. Era un luogo sgradevole. Lora osservò con acredine tra sé. Beh, forse qui mi lascerà in pace, e fu lieta di quella sgradevolezza. Titus poteva tenersi tutto il resto: i prati verdi, la cima delle colline, i boschi di faggi scuri e pieni di echi come la cavità delle conchiglie. Poteva passeggiare sui campi più rigogliosi e goderne il dominio come un toro, dondolare col suo corpo imponente sulla cima delle colline o sgomitare il silenzio e cacciarlo dai boschi. Erano cose che appartenevano a lei, erano tutte sue, ma lei gliele avrebbe lasciate e si sarebbe tenuta solo quel campo funereo e le erbacce che crescevano dalla sua terra impura. Avrebbe accettato qualsiasi condizione pur di liberarsi di lui. E tuttavia non c'era riuscita, dal momento che per tutto il pomeriggio Titus era stato presente nei suoi pensieri e la sua voce le era risuonata nelle orecchie chiara come sempre. «Aspetta un attimo, vengo anch'io!» Non l'aveva aspettato, ma lui era venuto lo stesso. In realtà sapeva, ed era questa consapevolezza ad affliggerla, che Titus, vedendola andar via senza badargli, aveva ripreso in mano il suo libro e si era rimesso a leggere lentamente, e lentamente, con noncuranza, aveva ricominciato a fumare la pipa, concentrato e soddisfatto. Forse era ancora seduto accanto alla finestra aperta, o forse era uscito a passeggio portandosi dietro il libro e ora se ne stava sdraiato all'ombra, sempre immerso nella lettura oppure addormentato con il naso nell'erba o magari con pazienza oziosa cercava di convincere una formica a scalare un filo d'erba secco. Perché così era Titus? Titus, che era sempre stato suo amico. Aveva creduto di volergli bene, anche quando aveva saputo che si sarebbe trasferito a Great Mop. Aveva quasi pensato che sarebbe stato bello averlo lì. Carissima Lolly, le aveva scritto Sibyl dall'Italia, mi sono un po' pacificata circa il folle progetto di Titus, dato che ci sarai tu a tenerlo d'occhio. Gli uomini sono così indifesi. Titus è assolutamente privo di senso pratico, un vero artista, eccetera, eccetera. L'artista indifeso era arrivato e un minuto dopo era uscito a comprare birra e lamponi. Sibyl poteva stare più che in pace, nessun gatto avrebbe potuto scegliersi con maggiore sicurezza la poltrona più comoda. Un giovanotto così simpatico, aveva detto Mrs. Garland, lisciando il suo pigiama con mano voluttuosa. Un giovanotto così simpatico, aveva osservato Miss Carloe, passando il dito sulla zigrinatura del fiorino nuovo di zecca che aveva ricevuto per i lamponi. Un giovanotto così simpatico, aveva commentato Mrs. Trumpet in negozio e Mrs. Ward all'agnello pasquale. Non c'era grembo coperto da un grembiule bianco che non fosse disposto a vezzeggiarlo. Il bacco bambino aveva percorso la strada del paese con la birra e i lamponi, salutando con un educato cenno del capo tutte le conoscenze di Lora. Quella sera aveva cenato con lei, parlandole di Fuseli. Fuseli era una figura poco considerata, ma che aveva la massima importanza. I suoi quadri erano naturalmente secondari, dovevano essercene alcuni alla Tate Gallery. Era l'uomo Fuseli, Fuseli come segno del suo tempo, eccetera, eccetera, di cui Titus voleva scrivere. Scrivere un libro su Fuseli era l'ambizione della sua vita e la prima visita a Great Mop l'aveva persuaso che quello fosse il luogo perfetto per farlo. Il segreto per scrivere un buon libro, aveva detto Titus, era fare in modo di impedirsi l'accesso alle sale di lettura del British Museum. Lora aveva osservato in tono un po' stizzoso che se il problema era quello, avrebbe potuto restarsene a Bloomsbury e scrivere il suo libro di Venerdì Santo. Ma Titus aveva sollevato un'obiezione. E se avesse finito l'inchiostro? No! Great Mop era il luogo ideale. Domani, aveva aggiunto, devi portarmi a vedere tutti i tuoi sentieri. Aveva lasciato la pipa e la busta del tabacco sul caminetto, come lo scettro e la corona di un monarca usurpatore. Quella notte Lora aveva sognato che Fuseli era arrivato all'allevamento di polli di Mr. Saunters, aveva ucciso le galline e trasformato il prato in un campo da golf. Nei giorni che seguirono imparò molte cose su Fuseli mentre mostrava docilmente a Titus tutti i suoi sentieri. Faceva caldo e quindi camminavano nei boschi. I viottoli erano stretti e poiché raramente c'era abbastanza spazio per procedere affiancati, Titus in genere la precedeva, proiettando la sua voce nel silenzio. Quelle passeggiate non le piacevano, si vergognava della compagnia del nipote. Immaginava che i boschi, vedendola con lui, si ritraessero sdegnosi per lasciarli passare insieme. Titus era più tollerabile per strada, in paese. In verità, sulle prime, Lora era stata persino orgogliosa del successo del nipote. Dopo una settimana conosceva tutti e li conosceva molto meglio di lei. Passava dall'agnello pasquale ai rustici sedili nel giardino del pastore. Fece una sottoscrizione per il campo di bocce, entrò nel club di cricket, si impegnò a fare conferenza al circolo ricreativo durante le serie d'inverno. Gli fu offerto di suonare le campane e di leggere i brani della Bibbia durante le funzioni. Titus era un continuo sbocciare di progetti come fondare consorzi, organizzare danze folcloristiche, mettere in scena il Coriolano con la locale filodrammatica e lui stesso nella parte del protagonista. Invitare Henry Wepenshaw a dipingere il cartello con il nome del paese, far esibire Pandora Williams e la sua Rebecca in occasione dell'esposizione floreale di Berlitz. Si congratulò con Lora per la scoperta di un esemplare di comunità rurale ancora così intatto. Trascorsi i primi 15 giorni, tuttavia, divenne meno fecondo nel produrre fronde rigogliose e diresse la sua crescita in direzione opposta. Si dedicò a mettere radici. Cominciò a scrivere il suo libro e promise di tenere a battesimo il figlio che sarebbe nato allo stradino. Quando lui e Lora andavano a passeggiare insieme, gli capitava di farsi silenzioso, voltava la testa da una parte all'altra per pascersi del caldo profumo di un campo di trifoglio. Una volta, mentre erano fermi su un crinale che chiudeva la valle a sud-est, disse: «Vorrei poterla accarezzare». e seguì con la mano il profilo rotondo delle colline inciso da rotondi boschi di faggi. A quelle parole, Lora si sentì percorrere da un brivido freddo e distolse lo sguardo dal paesaggio che amava così gelosamente. Titus non avrebbe mai potuto parlare in quel modo se non lo avesse amato a sua volta, ma per quanto potesse amarlo con tutto il profondo amore dei Willows per gli spettacoli, gli odori della campagna, per quanto non avesse mai amato in modo così intimo e sobrio, quel suo amore non poteva che farle orrore. Apparteneva a un'altra specie. Era rassicurante, maneggevole, era un appetito ragionevole e positivo, un amore possessivo e mascolino. Il fatto che lui potesse amare quei posti così bene ed esprimere il suo sentimento con tanta facilità quasi la estraniava da Great Mope. Titus amava la campagna come se fosse un corpo. Per lei era diverso. Per giorni e giorni era rimasta ignara del suo aspetto, perché l'aveva amata e benedetta molto prima di vederla. Con nessun'altra garanzia se non un ramo di faggio, un nome, poche righe, qualche lettera su una cartina che si era fidata di quel posto e sulla fiducia aveva puntato tutto. E per arrivarci aveva lottato, mentre Titus non aveva dovuto lottare affatto. Per lui lasciare Bloomsbury per le Chiltern Hills era stato facile come per un gatto saltare da una sedia a una poltrona. E ora, dopo aver raspato qua e là e aver fatto qualche esplorazione, si era ciambellato nel verde di quel grembo e faceva le fusa al paesaggio. Il grembo era confortevole e lui intendeva restarci perché riconosceva i luoghi in cui stava bene. Era così confortevole che Titus poteva permettersi di diventare sempre più amoroso, di elogiarne i dolci declivi, di allungare una zampa sapiente e accarezzarlo. Ma per lui, Great Mope non era niente più di un qualsiasi altro bel grembo rurale. Gli piaceva perché ne aveva preso possesso, ma a parte il fatto che ci si trovava bene, era un posto come un altro. Lora lo detestava per aver osato amare così quel posto. Anzi, lo detestava perché aveva osato amarlo e basta, e soprattutto perché voleva imporre anche a lei quel genere di amore. Da quando era arrivato a Great Mope, lei non era più stata libera di amare a modo suo. A forza di commenti, osservazioni, apprezzamenti, Titus dava strappi continui ai suoi sensi, l'uno dopo l'altro, come fossero le corde di altrettante campane. Era un buon giudice delle cose di campagna. Gli sfuggiva ben poco. Sapeva leggere i paesaggi come suo padre James sapeva valutare i cavalli. Ma quello non era il modo di Lora. Lei si vergognava di rivolgere alla campagna quei complimenti da allevatori. Giorno dopo giorno lo spirito del luogo si ritraeva, allontanandosi da lei. I boschi la giudicavano in base al suo compagno e quando la vedevano passare con Titus si zittivano. Il silenzio li sentiva arrivare e fuggiva via dai campi. Le colline rinserravano i loro pensieri e si trasformavano in cumuli di terra coperti d'erba su cui si saliva e si scendeva. La boicottavano e Lora lo sapeva. Ma presto non se ne sarebbe più accorta. Anche per lei Great Mope sarebbe diventato un posto come un altro, una campagna bucolica in cui una zia passeggiava con il nipote. Non le restava altro che quel campo inospitale. E nemmeno quello era veramente suo, perché anche lì Titus le camminava accanto e la chiamava zia Lolly. Era in difesa contro di lui. Titus non aveva idea di come aveva distrutto la tranquillità del suo spirito, la rendeva infelice e in perfetta buona fede. Se solo avesse immaginato, o se lei fosse riuscita a dirgli quale distruzione aveva portato con sé, sarebbe andato via. Pur nel suo parossismo di insofferenza, questo Lora glielo riconosceva. Titus aveva buon cuore, era animato unicamente da buone intenzioni. Tanto più che avrebbe potuto trovare facilmente un altro paese, un altro grembo soffice verde in cui farsi ospitare, ma non sarebbe mai successo. Non avrebbe mai intuito. Non gli sarebbe mai venuto in mente di cercare un segno di risentimento sul viso di sua zia, né di fare congetture sull'umore di qualcuno che conosceva tanto bene. E Lora non sarebbe mai riuscita a dirglielo. Quando era con lui si sottometteva e riprendeva la sua vecchia occupazione, essere zia Lolly. Non c'era scampo. Invano aveva cercato di fuggire. Il sollievo che ne era venuto le aveva procurato estasi passeggere e illusorie. Aveva buttato via 20 anni della sua vita come una manciata di vecchi stracci, ma il vento, riportandoglieli, le aveva rimesso la vecchia uniforme. Un vento incessante soffiava dalla direzione di sempre. Era lo stesso vento dell'est che inseguiva pezzi di carta straccia in Apsley Terrace. E lei era la stessa vecchia zia Lolly, tanto utile, disponibile e trascurabile. Il campo era affollato di testimoni soddisfatti. Ce li aveva condotti Titus, Caroline e Harry, Sibyl, Fancy, Marion e Mr. Wolf Saunders la circondavano. L'avevano riconosciuta e gridavano: «Ehi, zia Lolly, cosa ci fai qui?» E la Dunlop, avvicinatasi silenziosamente alle sue spalle, diceva: «Chiedo scusa, Miss Lolly, pensavo le interessasse sapere che il gong ha suonato». Laura si sentiva in trappola, tremante davanti a loro, sconvolta e nauseata dalla rabbia devastante che attanaglia lo schiavo. Erano lì per riprenderla, l'avevano scovata e le si stringevano addosso. L'avevano lasciata correre libera per un po', tutto lì, perché sapevano di poterla catturare quando volevano. La sua illusione di libertà li aveva divertiti. Quando piangeva nel campo di primule, loro la stavano a guardare con un sorriso da dietro i cespugli. Era stato divertente vederla prendere tanto sul serio se stessa e la sua libertà, felice e assorta come un bambino che gioca a farsi la casa sotto il tavolo. Erano rimasti a osservarla per un po' con la loro condiscendenza da adulti e ora le si avvicinavano per mettere fine al gioco. Harry era disposto a chiedere un occhio sulla sua ribellione. Le labbra luccicanti di magnanimità. Caroline e Sibyl le andavano incontro sorridendo per cingerle la vita. I figlioletti innocenti di Marion e Fancy le tenevano le mani e le chiamavano zia Lolly, e Titus, che le aveva ricondotti lì, se ne stava un po' in disparte, come un presentatore, diceva: «Vedete? È tutto a posto, è sempre la stessa». Erano tutti coalizzati contro di lei, erano venuti per impossessarsi della sua anima, invulnerabile nella certezza della loro preda. «No!» gridò Laura, battendo disperatamente le mani. «No! Non mi avrete! Non tornerò indietro! No! Non c'è nessuno che mi aiuti!» Si spaventò al suono della propria voce. Sentì l'eco disperata del suo grido che risvegliava il bosco impassibile. Alzò gli occhi e si guardò intorno. Il campo era deserto. Fu scossa da un brivido e si accorse di aver freddo. L'afoso pomeriggio era passato. Il crepuscolo e un gelo appiccicaticcio sembravano strisciare fuori dagli alberi, sempre più scuri e immobili, in attesa. Era come se al posto dell'imbrunire fosse sceso l'autunno. Davanti agli occhi le balenò il buio incolore del campo. Stava ferma in mezzo al prato ad aspettare una risposta al suo grido. La risposta non venne, eppure il silenzio che l'aveva seguito era stato così intenso, così consapevole, come un pegno. Se un qualche potere abitava quel luogo e l'aveva udita, se una sinistra potenza amica era stata evocata dal suo grido, allora sicuramente era stato stretto un patto e quel pegno era irrevocabile. Si incamminò a passi lenti verso gli alberi, si sentiva incredibilmente stanca, riusciva a malapena a trascinare un piede dietro l'altro, aveva la testa come vuota. Si era dimenticata di Titus, si era dimenticata di quel lungo pomeriggio di frenesia e smarrimento. Era tutto irreale, tranne il silenzio che aveva seguito il suo sfogo. Quando giunse sul limitare del bosco, udì un mormorio di fitte fronde. «No!» sembravano dire i boschi. «No! Non ti lasceremo andare!» Sovrappensiero si diresse verso casa, quasi camminasse nel sonno. Quando inavvertitamente sfiorava un cespuglio spinoso o un filo d'erba più alto, sentiva un pigro solletichio attraversarle le membra. Fu con sorpresa che, guardando giù dal versante della collina, vide accoccolati davanti a sé i tetti del paese. Il cottage era buio e Laura si ricordò che Mrs. Leake aveva detto che sarebbe andata a una conferenza alla Congressional Hall. Girando la chiave nella serratura, sorrise al pensiero di avere la casa tutta per sé. Il corridoio era fresco e odorava di olio di lino. Sentì il borioso ticchettio dell'orologio della cucina, come se anche lui fosse compiaciuto di avere la casa tutta per sé. Quando Mrs. Leake usciva, faceva bene attenzione a chiudere la porta del salotto di Laura, riponendo la chiave sotto la vetrina della civetta imbottita. Laura infilò le dita nella fessura buia fra il fondo e la mensola. La chiave era fredda e liscia. Le piaceva la sensazione che provava tenendola in mano e la docilità con cui girava nella serratura. Appena entrata nella stanza, le venne ad annusare l'aria. C'era un leggero odore di chiuso, perché porte e finestre erano rimaste sbarrate nonostante la serata calda. Il suo naso distinse il tabacco di Titus e l'asse raccolto il giorno prima. Ma c'era anche qualcos'altro, un vago odore animale che non riusciva a spiegarsi. Aprì la finestra, che si sollevò con un rumore secco, ed accese la lampada. Sotto il paralume verde, il bagliore si rischiarò e divenne costante. Illuminò la tavola apparecchiata per la sua cena, i piatti scintillanti, il cetriolo e i ravanelli, le fette precise di vitello freddo e la lucida superficie della giuncata. Pazienti, indistinti, quegli oggetti l'avevano aspettata al buio, avevano aspettato che tornasse e traesse piacere da loro. Si offrivano al suo sguardo con compostezza, erano certi che sarebbe stata contenta di vederli. Il suo umore si risollevò all'improvviso, come la fiamma della lampada che qualche attimo prima si era fatta più limpida e salda. Dimenticò tutti i possibili motivi di angoscia, pensò solo al momento che stava vivendo e alla sicurezza con cui lo possedeva. Rimase in piedi, in quello stato di sonnolente esaltazione, a guardare la tavola apparecchiata. I piatti scintillanti erano giunti a Great Mop molto prima di lei. Quattro, glielo aveva detto Mrs. Leek, erano andati rotti e un quinto, a furia di venir messo in forno, era ormai troppo bruciacchiato per essere presentabile sulla sua tavola. Ma quelli che vedeva erano sopravvissuti in modo che lei potesse arrivare a mangiarli. La mucca pacifica, che aveva dato con tanta tranquillità il latte per la sua giuncata, aveva vagato per i campi di Great Mop molto prima che lei li vedesse o anche solo li immaginasse. I ravanelli e i cetrioli discendevano da antiche, ben radicate famiglie del posto. Il suo arrivo era stato previsto, la sua via spianata. Great Mop era indiscutibilmente parte della sua vita e lei era parte della vita di Great Mop. Prese un piatto e guardò il marchio. Veniva da Stoke-on-Trent, dove lei non era mai stata. Ora il piatto era lì, ad aspettare che lei ci mangiasse. Il re di Tarsis gli pagheranno tributo, mormorò. Mentre parlava, sentì qualcosa muoversi intorno ai suoi piedi. Abbassò lo sguardo e vide un gattino. Si era coccolato accanto alla sua caviglia, le mordicchiava il laccio della scarpa e faceva andare la coda di qua e di là. Allora i gatti non piacevano, ma quella creatura così piccola, eppure così decisa e battagliera, la fece sorridere di tenerezza. Ma come sei entrato? Sei passato per il buco della serratura? Gli chiese chinandosi ad accarezzarlo. Fece appena in tempo a toccargli la testolina dura che il gatto si attorcigliò intorno alla sua mano, graffiandola e mordendola silenziosamente, scalciando con le zampe posteriori. Laura si spaventò davanti a un attacco tanto feroce e irrazionale e le sue paure aumentarono quando cercò invano di scuotere via quel piccolissimo peso. Infine riuscì a liberarsi. Si guardò alla mano. Era coperta di graffi che andavano rapidamente arrossandosi e su uno era apparsa una goccia di sangue rotonda e di colore acceso. Il cuore le diede un tuffo violento e sembrò fermarsi all'improvviso. Laura afferrò lo schienale di una sedia per sostenersi e fissò lo sguardo sul gattino. D'un tratto si era calmato e dormiva, tutto acciambellato. Le sue costole magre si sollevavano seguendo la ritmica marea del respiro. Mentre lo osservava, Laura vide per un attimo la lingua rosea aguizzargli sulle labbra. Dormiva come un cucciolino da latte. Il dubbio non la sfiorò nemmeno per un attimo. Quella certezza era così precisa, così assoluta, che sembrava averle paralizzato il cervello come un morso di serpente. Restò a fissare il gattino, senza quasi rendersi conto di ciò che sapeva. Infine il cuore riprese a batterle molto, molto lentamente. Un lacerante muro di suoni le stordiva alle orecchie e le sue stesse carni le pesavano addosso, appiccicose e reali. L'odore animale che aveva notato entrando nella stanza le sembrava ora un fetore insopportabile. Era come se le pareti, il pavimento e il soffitto fossero impregnati di succo di finocchio spappolato. Lei, Laura Willhouse, in Inghilterra, nell'anno 1922, aveva stretto un patto con il diavolo. Il patto era concluso e convalidato dal rotondo sigillo rosso del suo sangue. Le tornarono in mente i boschi, il grido disperato con cui aveva chiesto aiuto e il silenzio che era seguito come a ratificarlo. Risentì il mormorio delle fitte fronde, fronde scure e grevi, simili alle ali degli uccelli notturni. No, no, aveva inteso dire al suo brusio sospeso, non ti lasceremo andare. In pace, libera dalle sue preoccupazioni, era tornata a casa. I cespugli, il sottobosco, gli alberi solitari, le grandi facce color polvere della regina dei prati e della cicuta l'avevano guardata passare, sapendo. Il crepuscolo la sovrastava, l'aveva circondata. Ogni ombra, ogni cupo boschetto l'aveva osservata da sotto i suoi sopraccigli di oscurità. Tutti sapevano, tutti erano stati testimoni. Nascosto nel bosco, il principe delle tenebre era rimasto a dormire per tutto il lungo pomeriggio afoso. A dormire o a premeditare uno dei suoi minacciosi temporali. Il disperato grido di bisogno di Lora lo aveva riscosso e il silenzio con cui lui le aveva risposto era un pegno. Ora, come segno del legame tra loro, aveva mandato il suo emissario. Era arrivato prima di lei, un alito fetido, uno scabro corpo nero nella sua stanza chiusa a chiave. Il gattino era il demone che sarebbe rimasto al suo servizio. Aveva già salutato la sua padrona e succhiato il suo sangue. Lora chiuse gli occhi e rimase immobile, svuotando la mente per accogliervi quel pensiero inconcepibile. Improvvisamente ebbe un sussulto. Nella stanza si sentiva una voce. Era la voce del gattino. Stava in piedi di fianco a lei e miagolava in tono lamentoso. Lora si voltò e lo esaminò, il suo demone. Era il gattino più piccolo e più magro che avesse mai visto. Era ancora così giovane che riusciva a malapena a reggersi sulle zampe. Lora si sorprese a pensare che era troppo piccolo per venir strappato alla madre, ma quel pensiero era ridicolo. Probabilmente non aveva madre, poiché era il gattino del demonio e non succhiava latte, bensì sangue. Eppure, nonostante tutto, aveva l'aspetto di un qualsiasi famelico cucciolo della sua specie. Aveva il muso appuntito e le costole gli spuntavano dai fianchi sotto la peluria arruffata. Il suo miagolio era penetrante ed eloquente in modo sproporzionato. Strano che un essere così piccolo e debole fosse l'emissario del demonio, l'inviato plenipotenziario di un personaggio così ragguardevole. Strano che lei si sentisse tremante e attonita davanti a un micino pelle e ossa con un paio di orecchie sproporzionate. La sua voce inquieta la supplicava, i suoi occhi chiari la fissavano dritta in volto. Non poteva che farle pena un esserino tanto indifeso e abbandonato. Povera creatura, senza dubbio sentiva la mancanza di Lucifero, soffriva di non potersi rannicchiare accanto a lui, stringendosi al suo fianco irsuto, di non poter più giocare con gli altri diavoletti. Adesso era stato mandato a svolgere un compito per conto del suo padrone, inviato nel mondo quando era ancora troppo giovane a faticare come uno sguattero chi viene dall'orfanotrofio. Non aveva nessuno a cui rivolgersi a parte lei e implorava il suo aiuto proprio come poco prima lei aveva implorato l'aiuto del suo padrone. La compassione ebbe la meglio sul terrore. Non era più il suo demone, ma un trovatello. E aveva fame. Voleva altro sangue o sarebbe andato bene del latte? Il latte era più adatto alla sua giovane età. Lora si avvicinò alla tavola, versò un po' di latte in un piattino e lo appoggiò sul pavimento. Il gattino lo beve come se stesse morendo di fame. Chino davanti al piatto con il naso bagnato, chiuse gli occhi chiari e tirò indietro le orecchie per leccare, mentre brividi d'estasi gli correvano lungo la sporgente spina dorsale fino a scuotere la punta della coda. Osservandolo, Lora sentì dissolversi anche gli ultimi rimasugli di ripugnanza. Anche se i gatti non le piacevano, era convinta che con quello sarebbe stato diverso. Dopotutto, era piacevole avere una creaturina a cui badare. Molte donne sole trovavano di grande compagnia gatti del tutto comuni. Quell'esserino non sarebbe mai diventato una bellezza, ma era senza dubbio intelligente. Quando ebbe finito di pulire il piatto con le ultime ampie leccate, il gattino sollevò gli occhi verso di lei. Povero piccolo, disse Lora e gli diede il resto del latte. Ora il micino mangiava in modo meno famelico, teneva la coda ferma e il suo corpo era rilassato, più vicino al pavimento, sopraffatto dal placido peso depositatosi dentro di lui. Infine, terminato il pasto, si alzò e fece il giro della stanza, stirando una per volta le zampe posteriori. Poi, senza sdegnarla di uno sguardo, si sdraiò, si arrotolò su se stesso, si srotolò, si grattò con noncuranza e piombò nel sonno. L'ora rimase un momento a guardarlo, poi lo sollevò da terra, tutto molle e inanimato, e se lo appoggiò in grembo. Lui quasi non aprì gli occhi, ma sfregandole un paio di volte la testa contro le ginocchia, riprese a dormire.